Ferruccio. Attenzione, attenzione, da domani venti di burrasca su tutte le coste. Mari agitati, soprattutto il mar di Sardegna. Hola, hola. Attenzione 10. Carlo. Piatto? Piatto, si accorge solo che c'è il telefono acceso, sto scoprendo una canzone. Che spesso. Ah Gianni, sentivo questo baccanosotto e quindi non ti stavo riconoscendo, evidentemente è forte la musica. Ciao Carlo, scusa ma stavo cercando, mi si è girata la pagina quindi non riuscivo a spegnere. Ho capito, infatti non si capiva bene neanche il timbro della tua voce, non ti preoccupare, adesso già è tutto chiaro. No vabbè, era un duetto, stavo cantando altro adesso quando ti ho chiamato, era un duetto che ho fatto. Ok, io a casa al computer mi stavo cercando una fattura che mi avevano mandato un anno fa, quando a gennaio diciamo dell'anno scorso, gennaio-febbraio, mi avevano spedito il letto con materasso memory foam matrimoniale eccetera eccetera e praticamente protesi sanitaria in base al DM numero 332-99, caratteristiche antidecubito, marcatura, offerta collezione. Praticamente mi hanno mandato materasso che può è rete a dove ortopedica, così mi scarico l'importo, capito? Ovviamente per esempio guanciali no, i guanciali no, set piedini no, però tutto il costo del materasso e della rete a doghe, perché è ortopedica, praticamente me la posso scaricare per un importo totale di 2.152 e quindi la porterò alla commercialista che mi fa la dichiarazione dei redditi, capito? Ah, te la puoi scaricare, te la pagano, l'ha capito. Così faccio con gli scontrini, con le visite che faccio, quando faccio la denuncia dei redditi faccio così. Esatto, infatti mi hanno detto lo stai pagando questo letto un bel po' di soldi, però poi sappi che avrai le detrazioni perché ti stai comprando un signor materasso con una rete ortopedica e anticervicale eccetera eccetera, e ci sono le detrazioni fiscali, quindi adesso non mi ricordo se dal 19 sono passati al 23, capito, aliquota 22%, al 22%. C'è scritto qua in fattura, quindi di 2000 insomma un 300-400 euro li recupero, capito? È meglio di un pugno a occhio, io l'ho cambiato da poco il materasso, sarà questo due mesi fa ho buttato via l'altro e ho comprato quello nuovo, dai, perché il cane perdeva sangue dal pisellino e me l'aveva tutto macchiato e quindi l'ho dovuto cambiare e c'aveva praticamente una ciccia che poi si è assorbita con la cura, però quando perdeva sangue la perdeva un bel e quindi si è andato sul letto e mi ha macchiato tutto, mi ha macchiato il coprilento, ce l'ho dovuto buttare, le zone, tutto là, ci ho buttato tutto. Insomma dai, l'amore per gli animali, però ogni tanto qualche danno anche loro lo fanno e bisogna portare pazienza. E cosa ci vuoi fare? Io lo stesso, io perché quando mi sono trasferito qua inizialmente avevo capito un letto d'emergenza, così era un lettino singolo eccetera, già ci dormivo bene, però poi ho detto, ma io mi prendo un letto come si deve, grande, matrimoniale, così almeno mi allargo bene, eccetera. Non si sa mai che poi venga a farmi anche compagnia qualche notte, qualche amica, e ci stiamo più comodi così. E niente, quindi mi avevo preso il materasso nuovo, e questo che me l'ha venduto mi ha detto, guardi, si prenda questo, lo paga di più, però abilita le detrazioni perché ha queste caratteristiche, è come se stesse comprando qualcosa di, che serve per la sua salute, e secondo insomma questi articoli di legge ha diritto alle detrazioni, capito? E, insomma, qualche cosa ce la risparmio. Fatto bene, anche io l'ho preso in memory, però non ho preso il stupidico, l'ho preso normale, ma è buono, non è molle molle, è bello diciamo, bello sessido, diciamo. Ecco. Avanti. Buonasera Gianni e buonasera Carlo, mi servirebbe un controllo. Avanti, buonasera anche a te, avanti che te lo do, perché non stavo guardando lo smitter. No, va bene, lo smitter non mi interessa più di tanto, la radio. Massimiliano comunque da questa. La radio è buona, presente Massimiliano, è buona. Il segnale è 95, se ti può interessare. Non so dove sei. A casa, con un'altra antenna però. Ah, ecco, perché il segnale non era il tuo. Ma va bene, dai, la radio già è buona. Cioè, è forte, bella forte. Non so come ti sente Carlo, che è più lontano forse. Ciao Massimiliano, buonasera. Io ho guardato e mi arrivi con un Santiago di 9, ovviamente io ho l'antenna sul balcone, e Radio 5 ti sento molto bene, capito? Positivo, questa è una radio che avevo nell'escavatore, là, 1,87. È tolto? Sì, l'ho tolto, lo uso a casa, perché mi dispiace perché è nuovo. Se non c'è gente, cosa te ne fai? Per prendere povero e basta. Sì, qua c'ho il Michelin a metà, dopo lo vedo un po', sto usando una Stellar adesso, ci sono 3-4 radiali, sono rimasti. Quella che c'avevi sempre, l'avevi rimpiazzata. Quella che c'è a fianco alla Mantova già. Ho capito. Vabbè, sì che va, intanto ti togli la soddisfazione di usarla. Già va bene. Ah, comunque va bene l'apparecchio, ma è modificato. Sì, è modificato già. No, ma va bene, la radio va buona. C'è anche le cocotte quello. Sì, va, te la attacco in diretta. Allora, qua ci mettiamo il beep e qua aspettiamo l'ecco. Non mi ricordo manco qual è. Capisci, cambio. Adesso è giusto, adesso va bene. Una bomba. Qui così faccio per fare questo, me l'ho portata questa. Una bomba, si collega. Va benissimo. Tu pensa che ho il Mickey Yen a metà, guarda. Allora, così ho un Mickey Yen alle 2. Allora è bello corposo. Avanti, con l'eco insomma è da battaglia proprio, quello è. E l'altra antenna, la Mantova, è buona Massimiliano oppure il vento te l'ha danneggiata? No, tutto a posto Carlo, la Mantova è sempre buona, l'abbiamo presa da con Gianni, una ventina anni fa già forse, no? Ce l'avevamo io, tuo cognato, c'era Pierpaolo mi pare anche. Pierpaolo e anche Antonio. Ma di Mantova ne ho anche un'altra. Tutta intera, pronta a montare su, però non ho il radiale in fibra, gli ho fatto il radiale in alluminio, sempre il Mantova 1. Vabbè, ma lo stesso, perché era la Mantova 5, gliel'avevo cambiati, gli avevo messo buono in passato perché le boccole si erano rovinate. E praticamente gli ho tolto fuori le boccole che c'erano, gli ho messo buono in passante e le ho fatte proprio perfette a misura, e poi le ho messo anche in punta i gommini. Sembrava uscita dalla fabbrica, uscita bene. Anche la mia è così, già, nuova, l'ho fatta nuova e anche io ci ho messo i bulloni passanti. Lì nella filo radiale metti il bulloncino passante, va più bene, più resistente. In mancanza di qualche antenna ce l'ho pronta, là. Infatti. Vabbè. Ognuno si arrangia come può, Massimiliano. Adesso arriva un bel po' che non entravi, come va? Diciamo che un periodo un po' così, mi stava passando un po' la passione, va, metto il rede. E vabbè, anche perché già ti rimanevi davanti alla radio, non capisci nessuno. Ma se tutti la pensano così, Massimiliano, se uno dice non c'è nessuno, l'altro dice non c'è nessuno, invece io sono sempre entrato. Qualcuno entrava sempre perché quando io entravo mi sentiva, lo facevo un break e mi rispondeva. E poi l'abbiamo portato avanti così, Carlo entrava, poi è stato un periodo vabbè, che non entrava, ma ha avuto il suo perché, quindi quando si è trasferito di casa poi ha rimpiazzato tutto. E vabbè dai, adesso stiamo ripopolando tutto, è entrato qualcuno nuovo, ma si vede, non so se ti sei accorto. No, e che c'è nuovo? Vabbè nuovo, era un vecchio CB che ha ripreso, dai. C'è Luca di Via d'Italia, nuovo, poi c'è quello di Sorso, come si chiama, San Pei, di Sorso, insomma qualcuno sta entrando, dai. Meglio così, dai, almeno qualcuno in più c'è, dai. E alla sera adesso magari qualche chiacchierata così già va bene. Avanti Carlo. Sì, confermo, e qualcuno ci sta di nuovo riaffacciando. Io ero da molto che non sentivo neanche Eugenio da Porto Torres e in questi giorni invece ha ripiazzato l'antenna e lo sento anche molto bene qua, e quindi arrivo sino a Porto Torres, poi arrivo sino a Ittiri, ho sentito Daniele e insomma ad Alghero ci arrivo un po' a fatica, ma se non c'è molto QRM mi sento, no? E quindi con questa antenna sul balcone, diciamo, bene o male, capito, sto tirando avanti per adesso, poi se avrò la possibilità di metterla sul tetto la metterò sul tetto un'altra, e devo vedere un pochettino, ma primavera inoltrata estate, perché adesso inverno non va bene. Ma è per città, finché riesci va bene, là. Tanto se ti ascoltano tutti si è a posto. Ho visto anche l'Umbrofetta, si fa sentire da tutte le parti, forse anche la zona, Massimiliano. Ma infatti anche l'Umbrofetta c'ha quell'antenna lì, mi sembra, la Boomerang, mi pare. Sì, la Boomerang l'Emma c'ha, come quella sua. La zona sua è buona. Anche quella di Carlo non è male, è provincia d'alta. È buono. Cioè, abbassa, non alta, scusa. Provincia da bassa. Vabbè, comunque si fa sentire, interessante quello. Ma la Boomerang a me è stata sempre antipatica come antenna. Non riuscivo mai a regolare le stazionali. Meno di due non le facevo scendere. Vabbè che io ci avevo i palazzi di fronte, magari anche quello. Infatti, no, io la verità non ce l'ho mai avuta, ho avuta quella a bastone, come si chiamava? Che poi era alto 1,5 metri, mi pare. Ah, il Mangarello, non lo ricordo come si chiamava, Antonio ce l'aveva quella lì. Ce l'ho avuta anche io, ma sa se aveva come passo. Oh, non se mi alluda in Sant'Enna, boh. Secondo me è Marina quella lì, non va bene in mare, non va bene... Non rende come appena. Magari vuole piazzata molto in alto. No, io poi c'avevo la grande Grand Prix, quella con i radiali lunghi, quella proprio mi ha dato molte soddisfazioni. Quella che poi aveva Gambino. È positivo, quella lì proprio. E poi che fine ha fatto? Le l'ha buttata al vento? Non lo so già, non lo so. Antenna bazooka, ce l'ho anche io, non serve a niente. Non la vedo più, guardate, non la vedo più, devo essere io, gliel'ho buttato al vento. Che ne so. Vabbè, pazienza, dai. Con quella rinnova forte con l'antenna, me lo ricordo. C'aveva un bel microfono, Gabino. Sì. Comunque l'antenna che stavate dicendo era forse bazooka, la chiamavano così, quella corta, grossa grossa, ce l'ho anche io, ma non è che serve tanto, il ROS è sempre alto, con questa c'ho 0,5 invece. No, quella lì non arrivo qua meno che la lambrica. Lo sapevi. Quella è l'antenna, diciamo, di quelle di soccorso, quando si rompe l'altra magari ci metti quella, ma non era molto, non era molto performante come antenna. Mentre invece la cosa, la Grand Plain, e anche la Grand Plain io ce l'avevo, c'avevo la LEM a Sacro Cuore, dove abitava mamma, quando era a casa di mamma. A Sacro Cuore c'avevo la Grand Plain con i radiali 2,75, quella della LEM, per intenderci. E arrivavo al Ghero 9,5, 9,10 da lì. Ma tu la zona tua è buona già. La mia adesso, però io abitavo a Sacro Cuore prima, abitavo a casa di mamma, no? Quando era a casa di mamma io ce l'avevo lì la Grand Plain. Allora, ma ti ricordi che c'era anche Giuseppe Tornado, che abitava lì in quella zona, e usciva benissimo. Ehi, a Giuseppe l'ha lasciata nuova, l'antenna, è un peccato, la Mantova 5 l'avevo piazzata da poco, e l'ha lasciata lì perché si è trasferito, capito? Ah, non abita più lì? No, abita a Sassari 2 adesso, ha preso la casa lì, ha preso la casa a Sassari 2. Ah, ok, ok. Va bene, va bene. No, io la verità mi avevo preso questo qua, questo 87, nuovo, con scatola, c'è garanzia e tutto ancora, figurati. L'ho preso, dico, mi è venuta questa idea, dice adesso me lo metto nell'escavatore così magari quando entra qualcuno mi faccio una chiacchierata. E invece giorni e giorni acceso già, ma zero. Anche io l'ho messo in macchina, ma qualche volta sento qualcuno, ma proprio di fortuna la mattina, perché la mattina prima entrava, la mattina entrava sempre Mario Mao, Gio Maria, tutti quelli lì la mattina. E poi morto Mario Mao, non è entrato più nessuno, è difficile che entra la mattina. Vabbè, ma per dirti, no, anche quando stai sul 5 o qualche camionista, non senti più niente. Ma i camionisti stanno usando il telefono, non ce n'è più camion. Io ho trovato a Domenico Tardaretto, e mi ha detto già, non ne siamo più usati, siamo usando il telefono. Ormai, infatti, ormai la radio è quasi sparita. Ma molta gente non sa che se ci sono allagamenti, catastrofi, roba del genere, la linea telefonica non funziona. Quella che può funzionare è solo la radio. È vero, è vero. Avanti, Carlo. E diciamo che la mattina sì, c'è meno traffico, però per esempio io stamattina che sono a casa, sono di riposo, sono entrato, è entrato Claudio un attimo, siamo stati una mezz'ora circa, dai, c'è entrato Eugenio da Porto Torres, e qualcuno entra ogni tanto anche la mattina, e io perché ho il computer vicino, quindi sto a guardarmi le notizie, la radio la lascio bassa, accesa, quando vedo lo smitter che si muove, alzo il volume, sento chi è, e qualche volta rispondo anche io di mattina, e qualche chiacchierata ci esce, dai, non sono tanti che entrano la mattina, e invece di sera già sta entrando un bel po' di gente, io, Gianni, che entriamo quasi sempre, tranne quando io sono al lavoro di pomeriggio e allora non entro, però sta entrando Luca, quello nuovo di Viale Italia, e entra Gianni Rubrofetta la sera, entra Claudio, a volte anche Roberto Quadrato, sì, insomma qualche chiacchierata ce la facciamo sempre, e poi Daniele, insomma, e qualcuno già c'è. Beh, ci stiamo risvegliando, l'abbiamo riesumata la frequenza. Vabbè, io ci sono sempre, io lo lascio tutti i giorni acceso, tutti gli apparecchi sono accesi, quando dopo che finisco di cantare accendo tutti gli apparecchi, che ci sia gente o no li lascio accesi, perché una volta sono stato due mesi mesi che non lo usavo, sono andato a usare il Galaxy e sparivano le ultime cifre della frequenza. E poi si è ripreso come io l'ho usato, non l'ha più fatto. Buono. Ah, signore, io magari rientro dopo, che adesso scendo nel piano di giù, che c'è mia moglie sola. Magari ci sentiamo dopo, ok? Ehi, la Massimilia, dai. Buona questi greca, allora ci sentiamo dopo, dai. Se vuoi entrare non c'è problema. Ok, andare, ciao Gianni e ciao Carlo, dai. Ciao Massimiliano, quando entri ci fa sempre piacere, quando vuoi già siamo qua. Ciao, buona serata. Gianni, ci sei? Sì, sono qua Carlo. Adesso ce l'ho divertissimi, c'è la corrida a Sassari, cavolo, voglio andare a vederla. Solo che l'amico con cui vado si è messo con una tipa adesso e non mi convince. Di solito esco sempre con questa amica, adesso si è messo con una tipa, meglio per lui. Vabbè, ha trovato un'altra alternativa. Sì, stavo un po' leggendo le notizie. Iran USA, attacco imminente, insomma, venti di guerra, capito? Insomma, a tutti i costi vuole abbattere questo regime che c'è in Iran, come si chiama, il presidente americano, capito? Quindi non si mettono d'accordo e poi alla fine vedrai che scoppia un'altra guerra adesso. Oh, questi americani sono sempre stati così, sono stati sempre per bombardare, per fare guerre, la pace loro non sanno dove sta di casa, inutile che lui vada a fare pace con un popolo e poi le bombarda un altro. Perché loro vogliono avere il dominio anche economico, capito, del petrolio, così come hanno fatto a Maduro, che l'hanno sequestrato, adesso c'è la vice che pare che sia filo americana e quindi loro hanno messo piedi lì, adesso gestiranno un po' il petrolio, capito, mondiale, perché quello che hanno lì in Venezuela è uno dei migliori di petrolio, quello più denso, capito, che va meglio e insomma si usa anche per diciamo per arricchire l'altro petrolio, quello più povero, capito? E quindi è molto pregiato e lui ne sa due righe, capito, come grande imprenditore e quindi ha fatto quella mossa lì adesso, ha messo i piedi dentro il Venezuela, adesso investirà un sacco di soldi in nuovi pozzi petroliferi, capito, e si prende tutti i denari. E così vuole fare anche in Medio Oriente, capito, vuole far cessare le guerre facendo un'altra guerra. Ma speriamo che non ci mettano in mezzo a noi di salvare i nostri di loro. Speriamo che non ci siano conseguenze catastrofiche, mi già mai capito, perché c'è gente pazza al mondo e non sai che armamenti abbiano, Sì, perché poi tu magari c'hanno gli alleati e bombardano contro di loro e succede un casino. Lasciamo perdere, meglio non pensarsi, meglio viversi la giornata, perché non possiamo stare sempre in tensione per questa gente, non è possibile. E adesso vediamo cosa ne esce fuori, insomma, vedremo e speriamo bene, dai, speriamo che poi alla fine questo dell'Iran si dia, insomma, vada via e che ceda, non lo so, insomma, per il bene di tutti, cioè, se questo può essere il bene di tutti, vedremo come va a finire Gianni. Purtroppo, chi vivrà vedrà. Le guerre sono una cosa brutta. Mio padre è stato in guerra, però secondo me lui aveva un rimorso, forse delle persone, dei bombardamenti che ha fatto, eccetera. E andava due volte in chiesa, prima di andare al lavoro la mattina e la sera, quando ritornava, andava in chiesa e poi tornava a casa. Sì, adesso giusto per cambiare discorso, stavo abbassando la serranda, ho guardato fuori, mi sembra buio, invece c'era ancora un filino, non è buio completo, e sono le 7:20, 18:39 per essere precisi, e si stanno allungando le giornate. Secondo me a fine febbraio, tra una decina di giorni, fa buio alle 19, capito? E poi praticamente da marzo in poi crescono le giornate, a fine marzo dovrebbe cambiare anche l'orario, e così abbiamo le giornate più lunghe e riusciamo a fare un sacco di cose in più. Infatti, ma con questo buio non si può fare niente, per carità. E io stavo leggendo invece del comune, dei vigili urbani, che vogliono sanzionare le persone che hanno la raccolta porta a porta e che buttano la roba, lo stesso dei cassonetti, questi che buttano la roba con le buste nere. Dice che c'è una sanzione, se vai con la macchina ti prendono la patente pure. E fanno bene, se ci sono delle regole bisogna che la gente le rispetti, capito? Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così, adesso hanno istituito questa raccolta differenziata porta a porta, però il comune ha, secondo me, una piccola colpa, che sta continuando a lasciare i cassonetti, capito? E la gente sta andando e buttando, continuando a buttare nei cassonetti, capito? Ovviamente ci sono quelli che buttano regolarmente, nel senso fanno plastica con la plastica, la buttano anche con le buste giuste e con i colori giusti, capito? E ci sono invece altri che stanno utilizzando ancora i bustoni neri, che dovrebbero vietare la vendita di quei bustoni lì, capito? Io ce li ho buttati, io ce li avevo, bustoni neri. Però quando ho saputo che non si potevano più usare, ce li ho buttati via, non li ho più usati, li ho buttati nella plastica e via, non li ho proprio eliminati, intanto stavano lì, buttati sotto il lavandino per niente, facciamolo solo casino e basta. Sì, qua ho visto che per esempio dove abito io c'erano i doppi cassoni, no? C'erano due verdi, due per la plastica, due per la carta, capito? Uno solo per l'umido. Invece adesso hanno proprio eliminato, hanno lasciato un cassone, quello verde per l'indifferenziata, poi uno per l'umido, uno per la carta e uno per la plastica e poi la campana del vetro, hai capito? E quindi la gente li sta intasando, perché tu vedi che la roba trasborda, addirittura il tappo aperto completamente, anche buste fuori per terra, capito? Perché vuol dire che molta gente per i cassoni sta continuando a buttare nei cassoni. Carlo, per la carta non va bene, manco l'umido, io ne faccio di più del tanto che loro ci mettono a ritirarlo, perché la carta io adesso ce l'ho al culmine, proprio, cioè al massimo, perché io faccio così, la carta, quella che uso per gli uccelli, la parte di sopra che è sporca la metto nella vetrina indifferenziata e l'altra parte che è pulita la butto nella carta. Però ne faccio un bel, capito? Non mi bastano queste buste da una volta all'altra, devo chiuderla, lasciarmela in terrazzo, a sventiare, fiago, eccetera. No, non va bene, non mi piace questa raccolta differenziata, bisognerebbe fare la differenziata ma con i cassonetti, perché se uno fa più modesta, a parte che quelle buste che ci hanno dato sono piccole, non ci sta nulla, praticamente io le metto nelle pattumiere dove c'era prima, dove facevo prima, non va bene, perché una volta che tu le metti un paio di bucce di arancio, se ne scende la busta e le va a lutugare. Esatto, perché tu sì, sei solo, però avendo degli animali in casa, tipo gli uccelli e insomma hai anche il cane, è praticamente come se fosse una famiglia a tre persone, perché comunque sia devi fare la pulizia, le gabbie, insomma, e quindi cose di differenziata, diciamo residui differenziati ne fai tu, e le buste effettivamente sono piccoline, capito? E anche l'umido, io mangio arancia, ne mangio due a pasto, mi piacciono bene le arance. Per dire, le riempio, poi quelle bustine sono corte, capito? Non ci arrivano, rimangono sospese nella pattumiera, se invece me ne davano grandi come quelle della plastica, come quelle del differenziato, era un'altra cosa, ma quelle dell'umido sono piccole, capito? Si rimbarano, le ho dovuto mettere un elastico attorno per non farle scendere. Esatto, e infatti bisogna fare così. Vediamo come va, prima o poi il comune farà sapere, insomma, se la raccolta differenziata porta a porta sta andando bene oppure è un disastro, capito? Quello che non riesco a capire è perché stiano continuando a lasciare i cassonetti quelli grandi, anche se li hanno diminuiti, capito? Da due sono passati a uno, capito? Da due per tipologia di raccolta, capito? Però comunque la gente continua a buttare lì. Sì, ma se tu butti con le buste che ti hanno dato loro nei cassonetti, ti beccano subito perché hanno il codice tutte le buste, capito? Ma finite queste buste qua, non so se si possano prendere. Io per dire, ne avevo trovato un rotolo con un marchio comune di Sassari, l'ho trovato in piazza della Meridiana portando il cane, deve essere qualche turbino, pulendo le apperse, ed era un rotolo grande, me lo sono preso. Adesso quello lì io lo uso per buttarcelo alle indifferenze, tanto quello non ha nessun marchio. Quello lì posso buttare anche le cassonetti perché è trasparente e è omologato per fare queste cose, perché lo usano nei turbini. È buono, buono, sì. Io per esempio qualche giorno fa stavo facendo le mattine e ho visto che hanno una specie di pistola dove sparano il codice che c'è nella busta per vedere se corrisponde alla zona, non lo so. Prima di buttarla ho visto che spara con la pistolina il codice delle buste e le ritira. Ma non è vero? No, a Sassari qua, in via Pola. Ah, maledetti. Capito? Quando tu metti le buste fuori, per esempio della carta, che dovrebbero essere, credo, gialle, praticamente la chiudi e loro sparano il codice e dopodiché ti danno un'occhiata perché sono trasparenti, no? Per vedere se tutto a posto, e poi la buttano. Ah, capito. Tutto controllato, E beh, a me se mi vengono la carta delle differenziate non è che mi fanno la busta, quella è la carta che è sporca. Beh, per forza la devo mettere in... Sì, già stanno controllando, sì. Già, infatti vedevo questo lucchio rosso, lo già in mano. E poi ho visto che sparava le buste, capito? La gente le mette tutte una vicina all'altra, no? Fanno dei piccoli mucchietti. E praticamente per la carta utilizzano un mezzo piccolino, capito? Che da quel punto di vista è meglio, capito? Ma questo deve scendere dal mezzo ogni 3x2 praticamente. E quei mezzi che usavano per i cassonetti, perché c'erano tutto automatico, faceva tutto l'autista, automatizzato dall'interno, che fine faranno? I mezzi che erano mezzi grossi, Esatto, e che ne so cosa ne fanno, venderanno ad altri comuni che magari non fanno il porta a porta e li venderanno così, cosa vuoi che ti dica? E certo che sono quattrini, perché quei mezzi costano pure un bel po' di soldini. Sono tre assi, quattro assi, sono tutti quanti così, sono grandi come cani. Una volta lì via Rockefeller, dove c'è quel negozio di alimentari che prima era Sisa, ti ricordi, via Rockefeller, mia moglie aveva messo la macchina lì e questo camion facendo la curva col gradino dove si mette sempre dietro il coso, il turbino, ha toccato fermato la macchina e gli ha fatto la fiancata, l'ho vista una tipa e trattandosi ha detto guardi che gli hanno toccato la macchina qui alla Mondezza, perché l'avevo vista scendere la linea. Beh, fatto sta che siamo andati dove ci sono tutti i cani della Mondezza, cosa? E lui si è negato che aveva toccato la macchina, non c'erano testimoni, quella là non l'ha più trovata, quella che aveva visto tutto non l'ha più trovata e ci siamo dovuti pagare i danni. Successo anche a me Gianni, in via Dau, proprio nella curva avevo parcheggiato e qualche stronzo ha parcheggiato stringendo proprio il passaggio del camion male, perché si posteggiavano nella piazzetta, capito, restringendo il passaggio, quindi il camion doveva fare la curva e poi entrare a retromarcia. Come ha fatto retromarcia, loro hanno la scaletta dove salgono gli operatori e quella scaletta mi ha toccato il parafango anteriore, mi ha fatto uno squarcio, capito? Io mi sono accorto perché non stavo andando a lavorare in quei giorni, dopo uno o due giorni, quando sono sceso per fare una commissione e da lontano guardavo la mia macchina e dicevo ma è un riflesso oppure è un danno questo? Quando mi sono avvicinato ho visto il danno e capito, e anche io ho preso, telefonato al servizio, capito, di nettezza urbana a chiedere guardi io ho la macchina lì parcheggiata e dal danno corrisponde in base all'altezza eccetera alla pedana dove gli operatori mettono i piedi eccetera, e in retromarcia un vostro mezzo mi deve aver danneggiato la macchina. Ma lei come fa a dirlo quello? Poi noi come facciamo a sapere se non ci sono testimoni? Lo sta dicendo lei, noi non è che possiamo fare così. Ho detto va bene, ho detto a non risentirsi, gli ho chiuso il telefono, ho detto sono andato da un amico carrozziere, mi ha cambiato il petto nuovo, me l'ha preso originale, me l'ha verniciato e me l'ha rimpiazzato, capito? Perché ha dovuto cambiare tutto il petto della carrozzeria. L'ha tagliata perché quella scala c'ha la punta, siccome quei camioni quando girano la coda li gira, capito? Quindi è normale che tocchino le macchine, devono stare attenti, si devono stringere di più perché sennò toccano le macchine, oppure andare avanti e girare dopo, c'è poco da fare, non si può sfasciare tutte le macchine così. Anche alla Cedoccio questo qui ha messo su Facebook, ci hanno fatto tutta la fiancata e suppone che sia il camion della Mondezza. Gianni, buonasera, lì dovevi chiamare i vigili, facevano le fotografie e poi scendevi al deposito, senza negare il camion della Mondezza, se ne è andato senza avvisarmi, hanno toccato e se ne sono andati, così dovevi dire, dovevi insistere. Allora, la storia è questa, che lei era dentro il supermercato, siccome questa signora l'ha vista scendere dalla macchina, è scesa subito dopo di lei. E quando lei era già entrata nel supermercato, questa signora ha visto tutta la scena, hanno fatto la curva e con la scaletta dove si mette l'operatore ha toccato la macchina, la macchina biancata. E se ne sono andati, hanno fatto finta di nulla e se ne sono andati, capito? Questa signora è entrata, gliel'ha detto la mia ex moglie, e lei è uscita fuori subito, non c'erano più, se ne erano andati. Però gli ho detto, tu sei stata scema, perché dovevi prendere il nome e cognome di questa signora che ti faceva la testimone, invece questa qua non ha voluto testimoniare, non lo so cosa sia successo e non ci hanno creduto, siamo scesi giù dove ci sono tutti i camion e parlato con il direttore e ci ha detto che se non ci sono testimoni l'autista si è negato e noi c'eravamo anche il numero di targa perché quella signora l'ha fotografato, si è negato perché a quella lì c'era quell'autista e si è negato che aveva toccato la macchina, capito? Se non c'è testimoni va in cavalleria, a meno che trovi uno con le palle quadrate vanno all'avvocato e li denuncia. No, lì dovevi insistere. Attore, hai ragione, io ho capito, non ho neanche insistito perché talmente ero incavolato, ho detto ma va, devo stare con questi a fare mille passi eccetera. Anch'io ci ho pensato, stavo per chiamare i vigili, poi ho detto ma faccio prima, meno male che già c'ho un amico, capito, e quindi non mi è costato neanche tanto e me l'ha fatto nel giro di una giornata, gli ho lasciato la macchina, mi ha fatto tutto. Lo so Carlo, però che l'abbiano sempre vinta loro, cioè se tu fai un danno devi anche pagare, non è che non è possibile che caso con questi camion della polizia fanno un bel danno. Ce n'era anche uno su Facebook, ha detto che gli hanno fatto un danno allucinante proprio, e adesso non so che via sia quella lì, cioè, salendo lì dalla coppa dove abitava prima, dove abitava Gio Maria, quella zona lì, sali dritto e poi praticamente c'è una curva, la macchina era subito dopo la curva, questo carro deve essere come ha girato, la salsa tutta andata, la piantata era arrivata. E stanno cercando chi era, se qualcuno sapeva, perché è sceso alle 7 di mattina, l'ha trovata così questo qui, sicuramente alle 16, più che il carro della Mondezza non è. Sempre fanno così, ma sai che quando ho lavorato io nei mesi così quanto ne toccavano, ma toccavano belli voti, ma non fanno, che poi non pagano mai l'assicurazione, non pagano loro per fare cosa, non si aumenta di nulla, e fanno risarcimenti. C'è quello che si ne affrutti, hai compreso, che farà butto. Ma già, dopo una volta noi le abbiamo screditate a questi autisti. Vabbè, è gente che non c'ha criteri, perché uno può succedere che tocca, che non ha mai toccato in vita sua, però se tocca deve anche mettere un bigliettino, scrivere magari, rivolgersi il numero di targa, rivolgersi al comune eccetera eccetera, o dove deve andare e basta, finisce lì. Ma infatti è così, io devo fare, lasciare il bigliettino con il numero di targa e scendere giù. Ecco cosa deve fare. Devo fermarsi 5 minuti che scende il padrone, siccome sono la mattina presto, le macchine sono posteggiate in velocità già che non ci passano. E te lo fanno apposta, te lo fanno, come gira hai passato la macchina. E se ne negano tu. C'è già finito con i cosi quadrati che ti denuncia e fa una denuncia con l'avvocato, vedi che pagare il dubbio, pagano, e tu non lo paga. L'ho chiamato, come sono andato al lavoro, entravo alle 21, allora facevamo la notte 21.05, come mi sono sistemato un attimino, ho chiamato, mi ha subito risposto e gli ho detto io sono il signore che ha avuto il danno alla macchina. Ah ecco, mi scusi prima di tutto, ma io stavo facendo retromarcia, c'erano i ragazzi giocando a pallone e praticamente ho sentito il colpo ed era il pallone che mi ha preso. Io pensavo di aver preso qualche bambino, mi sono spaventato, ho sterzato di colpo e ho preso la sua macchina, capito, perché stavo uscendo da casa della mamma ed era un insegnante, un ingegnere che insegna alle industriali, alla mamma che abita di fronte, e lui non abita nemmeno lì e che ogni tanto viene a trovare a prendersi il caffè dalla mamma al dopo pranzo. Però è stato gentile, mi ha fatto l'assicurazione, abbiamo a casa completato il CID e tutto quanto, sono andato al carrozziere, capito, gliel'ho lasciata, ma ha cambiato tutto il parafango, dice tanto questo alla casco c'ha tutto, non gli aumenta né niente, capito, le mettiamo tutto il pezzo nuovo, non stiamo lì a raddrizzare eccetera, e l'ho portata da Grassi perché lui mi ha detto la porti dal carrozziere che le indica l'assicurazione e poi ci pensa tutto la mia assicurazione. Così ho fatto, mi hanno dato pure, perché l'hanno tenuta 2 giorni, anche la macchina sostitutiva, capito? però sono pochi quelli che fanno così, le persone gentili, capito? E persone come si deve, che ammettono di aver sbagliato e ti lasciano il bigliettino con scritto il numero di telefono dove tu lo puoi ritracciare. E invece una ragazza a fianco a me nel posto macchina, da quando si è pigliato la macchina nuova, ci ha preso di quelle Evo, di quelle SUV. Cavolo, ogni volta che fa manovra, fa la manovra contraria e mi tocca la macchina. L'altro giorno sono riuscito a togliere, adesso mi ha fatto la marcatura proprio. Adesso quando la trovo le faccio le voci di nuovo, voglio vedere, ma non sono stata io, come non è stata lì? La macchina di un giorno è ferma, l'ho lavata, non c'aveva nulla, era lucida come cosa e adesso c'è la toccatura, non è stata lì. Insomma, ce n'è da battagliare, da nettezza urbana a quant'altro. Vediamo se c'è qualcuno. Tore mi sa che ha ricevuto una chiamata, perché quando parlava sentivo una musica e quindi si deve essere un attimino allontanato. Avanti, chi sta fischiando? Ciao, Vani. Se tu bruci un bambino di caso su i denti, è normale che la gente non ti sente. Io ti ho sentito perché stava parlando Carlo, però diversamente non ti avrei sentito. Buonasera, comunque. Normale, dai, non è una modulazione normale, non è amplificata, però ne ha 6. Sì, vabbè, se vogliamo, aspetta. Non lo sento già. Se vogliamo già l'amplifichiamo. Vabbè, no, va bene così, è un po' citofonica rimane, è vero cazzo? Lo sento Gianni, io non sento niente. Chi è? È Vanillo di Sorso. È negativo, io ho l'antenna, già lo sai come, non lo sento. Mi sente a Porto Torres, Eugenio, arrivo a Itri, ma a Sorso, se non sono in alto io non li sento. Vanino abita, mi sembra, al centro, a Sorso Vicchia, così è Vanino. Sono testimoni, cosa fai? E il fatto è quello, a Carlo gli avevo toccata e non aveva testimoni, alla mia ex moglie lo stesso, gli avevo toccata, è entrata questa signora, però non ha voluto testimoniare, capito? Gli ha detto che se non erano pasticci, roba del genere, non gli ha voluto dare il numero di telefono né niente, quindi cosa fai? Quando tu mi gente così? Va bene, sapersi, no, io guarda, c'è gente che per dire, c'è questa qua che si è comprato la, c'aveva prima una Fiesta, adesso si è comprato un SUV, non la sa guidare, cazzo di amico. Cioè invece di uscire dall'altra parte, esce dalla parte dove c'è la macchina mia, gira lì e mi tocca sempre dietro, sempre, trovo una strisciata. Sì, quando erano strisciate le ho sempre tolte con la pasta magica, non gli ho detto nulla, poi alla fine un giorno glielo metto e si è anche cavolato, ha detto che non è lì, che questa è toccata la macchina, 2 giorni ferma perché non l'ho usata. Il giorno prima l'avevo lavata, non c'aveva nulla, adesso c'ha chi l'ha toccata, io l'ho toccata. Lo sento pio pio, io non riesco a capirlo Gianni, chiedigli se invece lui mi sente a me, a Vannino. Comunque quando è così, vedi che si muore, rimane il coso, ma con la mia madre dichiaro, guarda ci sono testimoni, se vuoi andare in casa, ci sono la causa, l'assicurazione. ma c'è gente disonesta, dai, che se quello della feroce gli hanno fatto tutta la fiancata della macchina, c'è due risportelli. Sì, la rimane alla parte di davanti, cioè, non avendo frisciato. Ma così, boh, come si fa, cazzo, boh? Io ho paura, io c'è la macchina di mia figlia che è ferma in cortile e ascolta l'assicurazione, ogni tanto la mette molto dentro il cortile, ma non l'ho mai usata. Molte volte già mi viene cosa di farla andare un po' per caricare la batteria, perché è ferma un po' di tempo che lì è fuori. E praticamente non la uso mai. Ma comunque ti conviene che perché se tocchi qualcuno, perché tutto mi tiene a sempre dentro, perché l'ho visto, vabbè, qui sai, quando fai una ricerca di chi è un altino, però chi ci puoi fare niente. Non ho paura del rischio che ne la sequestrano la macchina, se senza assicurazione sequestrano la macchina. Tu non stai uscendo, guarda. Io non sento niente già. Dai, riprendi il carro qui, Valino lo metti a posto, non sta uscendo. Ma io lo sentivo più, ma è comprensibile. Io non so se lui riesce a sentirmi, poi glielo chiedi se mi sente, ma penso che avrà problemi anche lui con l'antenna, perché mi sembra strano, arrivo a Porto Torres, mi sentono a Ittiri, anche ad Alghero, anche se non molto alto, però ho capito, a Sorso nulla, capito, niente. Magari è negativa la zona per te, capo. Ma lì non ti sente nulla, capo. No, non sta uscendo. Adesso va meglio. Adesso sì. Perché vi ho tolto le cuffie? Ma la radio non mi piace molto, sinceramente. È una radio citofonica, rimane. Non è nata per queste cose. La radio è signora radio, però in FM va meglio sicuramente. Certo. Sarà una radio amatoriale sicuramente. Avanti tu. Un po' gracchiante rimane, io lo sento, rimane un po' gracchiante rimane. Ecco cosa è. Adesso metto anche il pizzi, ma comunque non lo so. E se non può passare giù poco, ma fammi sentire. Adesso comunque non vale comunque queste barre, non funziona bene, diciamo che non è ideale. Non è chiara, vabbè, comunque già è comprensibile. Avanti, caro. Io lo sento basso, capito, vabbè, ma può essere anche l'antenna, come hai detto tu, per Sorso, quella zona lì evidentemente è negativa, capito, dove ho l'antenna. Perché anche l'altro giorno, quando Antonio era in macchina, se Antonio va da altre parti lo sento benissimo, capito. Se invece va verso la Budi, verso Sorso, eccetera, non lo sentivo per niente. Capito, evidentemente il fatto che che non ce l'ho sul tetto, non mi fa oltrepassare quella zona lì, e quindi è negativa per quello. Comunque la WD-40 dall'Arena del Sole, per esperienza lo so, e l'ho fatta per 30 anni quella strada, dall'Arena del Sole si deve arrivare al Bivio e tutto zona d'ombra. E lì è evidentemente una zona brutta allora. Poi si riprende, dopo Sassoli Vidriati lì si ascolti bene. Però lì dove c'è salendo l'Arena del Sole, lì ci tocca tutta zona d'ombra. E K. Purtroppo è così, quando non ce l'hai sul tetto l'antenna, un po' di limiti ce li hai, però diciamo per la città così è, qualche paese qua vicino già me la sto cavando benino, dai, non posso dire di essere al massimo, però diciamo che come l'ho messa adesso già va bene. Sì, Carlo, siamo tutti qui, dai, uno vicino all'altro più o meno. Ci siamo tutti vicini. Ripeti, Marco. Non so, purtroppo avevo su Vanucci. Anche perché poi se tiro potenza, se tiro la potenza, oltre poi va anche in negativo. Guarda, non si sente parlare, ma se parlo qua. Sì, va in negativo, va da 9 a 5, sì. Lo so, allora, aspetta un po', vediamo un po', aspetta. E forse va un po' meglio così. Vanno dei picchi negativi pure. Vabbè, se non è adatta per questa frequenza, accontentati, dai. Dove, ripeto. Ma che radio c'ha? Cosa c'ha? Radio Kibud, un Inco, uno Iaesu. Quelli sono difficili alcuni cordagli giusti. Sono un po' difficile. Tu sei stato un Kibud.